Nessun intervento sui titoli italiani. Però quello che abbiamo visto oggi, la conferenza stampa di Trichet, è il capolavoro, il trionfo della tergiversazione, dell'inutilità, dell'incapacità, delle autorità monetarie, di prendere una decisione. Quello che abbiamo visto tra ieri sera, dal discorso di Berlusconi a quello di Trichet, proprio è l'incapacità comunque delle autorità monetarie o politiche di affrontare la situazione. Non si capisce bene il motivo, ma quello che se il discorso di Berlusconi aveva deluso i mercati che si aspettavano l'anticipo di una manovra economica non del 2013 ma 2011 già o massimo 2012, il discorso di Trichet è stato qualcosa di paradossale addirittura, no? La dichiarazione, vedrete, non sarei sorpreso che alla fine della mia conferenza, e sono le 3 del pomeriggio quando lo sta dicendo, vedrete qualcosa, succederà qualcosa sui mercati. E in effetti, qualche secondo dopo succede qualcosa. Il rendimento del titolo di Stato italiano, che era al 6,20%, arriva giù al 6%, cade, no? Allora tutti dicono: mamma mia, sta comprando i titoli italiani, non capisce niente. No, no, non era quello il problema. Succede semplicemente che loro si aspettano qualcosa, gli operatori, e anticipano una mossa. Il problema è che non è successo proprio niente. Anzi, si capisce che lui compra i titoli, semplicemente i titoli portoghesi e irlandesi. Nemmeno gli spagnoli, perché era No, circolato anche questo. nemmeno gli spagnoli, no? E anzi, questo programma di riacquisto titoli è un programma che già giaceva all'interno della BCE, era un programma che era lì dormiente e viene semplicemente riattivato. E questo programma di acquisto titoli sembra che nemmeno abbia avuto nemmeno avuto il consenso unanime di tutti i Sì, se non rappresentanti, erro, no? l'espressione usata da Trichet è stata schiacciante maggioranza, no, Sì, non schiacciante schiacciante maggioranza, comunque vuol maggioranza. dire Comunque che vuol non dire erano non tutti, vuol dire che unanime. sicuramente qualche esponente tedesco si è opposto, no? E quindi la reazione successiva, quando i mercati si sono accorti che le parole di Trichet erano vuote, la reazione successiva è stata ancora peggiore.